Radio Onda Rossa 87 900. Dunque, dovremmo essere in collegamento con un compagno che chiamiamo da Parma. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, allora. Dunque, alla fine di giugno, insomma, la città ducale è stata scossa da questa operazione giudiziaria che ha messo in scacco l'intera amministrazione cittadina, perché, insomma, agli arresti sono andate 11 persone, alcune delle quali, insomma, coinvolte comunque con la gestione del potere pubblico a Parma. Ne è nato un movimento spontaneo di assedio al Palazzo Comunale, un movimento che si è dato appuntamento più volte nel corso delle ultime due settimane proprio in quel luogo per esprimere rabbia e forte protesta nei confronti della giunta, chiedendone a gran voce le dimissioni. Chiaramente tutto ciò, insomma, ci riporta al divario fortissimo che ormai esiste nel nostro paese tra la politica delle alte sfere di palazzo e la gente comune. Certo, ci domandiamo anche, insomma, questo movimento che tipo di caratteristiche ha, che composizione ha e se si riesce chiaramente anche andare al di là della protesta nei confronti della corruzione. Ci sembra questo un dato che, su cui occorre soffermarci e ragionarci in misura, insomma, abbastanza approfondita. Dunque, Andrea, ci spieghi innanzitutto come è nata tutta questa protesta? Guarda, la protesta è nata spontaneamente, nel senso che il venerdì 24 giugno ci sono stati gli arresti nel mattino. Appena si è avuta questa notizia è venuto proprio spontaneo per centinaia di persone andare in piazza a chiedere le dimissioni. Insomma, c'è molta incazzatura in città, e insomma, per una città che comunque appare narcotizzata e facciosa rispetto a tante cose, è stato un brusco risveglio per gli amministratori. Si è opposto a tanti provvedimenti, anche perché lì si sono trovate delle persone che in tutti questi anni si sono opposti a diversi, parlo di tutti i provvedimenti che ha preso questa giunta, a cominciare ad esempio dalla Carta di Parma e a tutte la questione legata alla sicurezza, per cui si sono mossi diversi collettivi e diverse aree della sinistra antagonista, fino alle recenti delibere a tolleranza zero contro accattoni o altre cose di questo tipo, per non parlare di opposizione ad altre grandi opere pubbliche, alla politica abitativa. Quindi si sono ritrovati in piazza tante persone, anche molto diverse, in cui però la sinistra antagonista era ben presente e la cosa positiva, riconosciuta da tutte quelle altre componenti, potremmo chiamare più moderate, da Popoli Viola, Libera Cittadinanza e cose di questo tipo, come un interlocutore. E in questo siamo poi riusciti a dire delle cose che vanno poi al di là, nel senso che al di là della corruzione, al di là del sono tutti ladri, eccetera, cose di questo tipo. Basta dire che oggi saremo ancora sotto i portici del Grano, che sarebbe la sede del municipio di Parma, però oggi ci sarà il consiglio comunale, lo slogan di oggi sarà basta società partecipate, è ora della partecipazione popolare. Quindi non soltanto contro la corruzione, ma contro un vero e proprio sistema che per forza di cosa genera corruzione. E poi dopo, se vuoi, posso anche spiegarti tutta la vicenda che può star dietro, al di là dell'inchiesta giudiziaria rispetto al sistema che è stato creato a Parma, che non ha molto di diverso rispetto a quello che accade in altre città o a livello nazionale, ma ne è specchio fedele, ma che qui probabilmente a Parma presenta delle caratteristiche particolari, perché è stato utilizzato come laboratorio da parte del centrodestra a Parma. Quindi, se vuoi, posso anche spiegarti un pochino, ad andare un pochino più in dettaglio rispetto alla posizione editoria e collegata con le grandi opere. Cose. Assolutamente sì, e tra l'altro, insomma, è chiaro, ci interessava anche questa tua affermazione rispetto a questa sorta di contaminazione che sta avvenendo tra, diciamo, area antagonista e movimenti, così li chiamiamo, della società civile, giusto per capirci, insomma, magari meno politicizzati, come dire. Ma insomma, soffermiamoci, come dicevi tu, innanzitutto su appunto tutto il versante non solo giudiziario, ma andando invece a capire bene quello che è successo dal punto di vista delle contraddizioni sociali. Soprattutto volevo dirti, siamo tra l'altro in un periodo di crisi economica, l'ultimo fine settimana insomma è stato piuttosto turbolento, immagino che di questo ci siano riflessi anche nel modello virtuoso delle città emiliane, ad esempio sotto il punto di vista dell'occupazione, anche lì probabilmente si risente insomma si sente il peso della crisi, soprattutto rispetto al modello delle piccole e medie imprese, che fino a qualche anno fa erano considerate, e tuttora lo sono, considerate volano del nostro modello economico, e decisamente però sono tempi duri anche per loro, insomma. Sì, sono tempi durissimi, direi. Anche a Parma ci sono state diversi licenziamenti, diverse delocalizzazioni, il settore dell'agroalimentare è in crisi, anche perché negli ultimi, se si guardano gli investimenti principali degli ultimi 15 anni, è il mattone soprattutto che qua ha tirato. Ti do soltanto un dato, che tra il 2005 e il 2007 Parma è al terzo posto dopo Venezia e Roma per quantità di superficie edificata, quindi 160 campi da calcio in due anni cementati, inghiottiti dal cemento, e siccome Roma è una ventina di volte più grande di Parma, questo vi dà un'idea, se siamo dopo Roma, appena dopo Roma, in questa triste classifica. Tuttavia questa febbre edilizia, che poi vede importanti gruppi costruttori locali sempre in prima fila, soprattutto per la cantierizzazione di quelle che vengono chiamate le grandi opere, abbiamo la Pizzarotti, abbiamo la Bonatti che si sono arricchite, ma sono le uniche che sono riuscite a farlo, nel senso che c'è una, per esempio, un problema abitativo che è simile a molte altre città d'Italia, per cui abbiamo un comune che sventola come una bandiera il fatto di avere costruito molti alloggi di edilizia residenziale pubblica, però vengono venduti a un prezzo che si gira intorno ai 3.000 euro al metro quadrato. Io non so quali case popolari possono rispondere a questo se vengono venduti a questo prezzo. Sono prezzi vicini a quelli di mercato, quindi. Sono molto vicini a quelli di un mercato piuttosto anche drogato. Sì. Perché siamo a Parma, non siamo né a Milano, né a Bologna, né a Roma, insomma, sì, non è che ci sia tutta sta gente che sgomita per venire a... ci sono state poi tentativi di fare grandi opere che per fortuna alcune, anche grazie a una grande mobilitazione popolare, è stata cassata, come la metropolitana, che si era proposta di costruire a Parma, metropolitana interrata, che è un'idea folle, un affare da centinaia di milioni di euro. E la febbre del cemento ha attirato poi anche la criminalità organizzata, come dimostrano molto bene diverse inchieste. Il paradigma dell'economia buona legale, dell'economia malata illegale, viene completamente stravolto, nel senso che questo confine ormai non esiste più, per cui è proprio un intero sistema che sta marcendo. Questo sistema, tra l'altro, che oltre a danneggiare la collettività divorando le campagne con il cemento, procura anche una marea di debiti a livello delle casse comunali. Il comune praticamente ha aggirato il patto di stabilità e tutte le restrizioni finanziarie agli investimenti, costruendo una trentina di società partecipate, cioè sono società miste pubblico-private esterne al comune, hanno dei bilanci a sé stanti, e il bilancio complessivo del comune di Parma con queste società, nell'ambito della trasformazione urbana, o perlomeno la maggior parte, o logistica, queste società più il comune hanno un debito complessivo di 636 milioni di euro, che è una cifra per una città di 80.000 abitanti che è vertiginosa, ed infatti c'è il rischio default, c'è il rischio della bancarotta per il comune di Parma. quindi per cui il sindaco sostiene di non volersi dimettere immediatamente, è quello appunto che deve riuscire a rifinanziare queste società che sono sull'orlo della liquidazione. In realtà molto probabilmente non si dimette perché vorrà che possa arrivare un commissario e possa magari mettere gli occhi su questi conti che oltre ad essere gonfiati da un sistema di corruttele che il procuratore della Repubblica ha definito diffusissimo a Parma, sono anche dal fatto che sono stati utilizzati per 15 anni più o meno scatole cinesi finanziarie per drenare denaro pubblico della collettività da parte di una classe imprenditoriale marcia tanto quanto quella politica. Poi nell'inchiesta magari vengono fuori cose che fanno emergere delle contraddizioni che sono palesi. Il comandante della polizia municipale è stato arrestato per concussione e anche perché vendeva ad un investigatore privato a 4.000 euro l'una delle informazioni riservate che andava a pescare dagli archivi dei carabinieri, quanto esattamente dei carabinieri di Arcore. E questo personaggio doveva essere quello che avrebbe dovuto far rispettare le famose ordinanze di Parma, per cui in città la politica classista dell'amministrazione era molto palese in quest'ambito, perché abbiamo avuto la militarizzazione della polizia municipale, per cui il pugno di ferro con chi sta ai margini della società, l'inflessibilità con i comuni mortali e una bella pacca sulle spalle ai potenti della città. Infatti sta emergendo dall'inchiesta che tutti i vigili che facevano multe o sanzioni, ma non parlo di divieti di sosta, parlo della non aria, quindi cantieri, cose di questo tipo, venivano minacciati di trasferimento se andavano a colpire qualcuno che non dovevano colpire. Di fatto ci trovavamo in questa situazione. Ed è per questo che la sinistra antagonista riesce a recarsi uno spazio, perché noi come area abbiamo contestato puntualmente da sempre tutte queste cose, abbiamo contestato un disegno di città. E oggi crediamo che a livello politico ci sia un vuoto, perché la sinistra, diciamo, istituzionale, perlomeno da noi, ma lo specchio di quella nazionale, non ha mai opposto un disegno veramente alternativo alla politica delle grandi opere, ai favori dei grandi industriali, alle politiche xenofobe e razziste che servono da foglia di fico per le riqualificazioni e le speculazioni immobiliari. Noi l'abbiamo sempre fatto e questo ha pagato in termini di credibilità. Senti, ci puoi raccontare anche che forme di partecipazione si sta dando questo movimento per diciamo mantenere una discussione che sia permanente e continuativa, che magari riesca a darsi anche dei metodi da un punto di vista organizzativo rispetto all'agitazione politica? Guarda, noi adesso siamo riusciti a creare un coordinamento molto roso tra un po' tra tutte le realtà o singoli anche più attivi, quindi ci si incontra il sabato e si pianifica per il mercoledì. Per il momento non c'è una vera e propria strutturazione di questo gruppo, ognuno mantiene la propria individualità e si cerca di procedere in comune rispetto alla gestione della piazza. Abbiamo fatto, e lo daremo oggi alla stampa, un manifesto di critica cercando di andare nel dettaglio rispetto alle cose che contestiamo, a scelte dell'amministrazione, al di là appunto della corruzione e delle questioni che sono finite in mezzo all'inchiesta Green Money 2, e ci siamo dati come nome la piazza. La cosa importante che secondo me è successa è che dopo gli scontri che ci sono stati sotto il comune nelle prime due volte, scontri che sono stati che possono essere assolutamente attribuiti a una gestione poliziesca sconsiderata, e per fortuna il rito dell'anticrimine è stato dopo pochi giorni quegli eventi, non c'è stato il fuggi la distinzione dei cattivi, che pure è stata cercata, no? Da parte di alcuni mezzi di informazione e da parte dei consiglieri comunali di maggioranza di farlo, no? Ci sono quelli che protestano civili, ma ci sono poi gli altri un po' cattivi, un po', no? Quelli che non vanno bene. In realtà questo tentativo è stato assolutamente sfatato, è stato disinnescato questo dispositivo che spesso in Italia, da Genova in avanti, per parlare solo di cose recenti, è stato sempre messo in atto. Per cui tutta la piazza decide insieme, una certa l'idea di essere diversificata, di essere distinta in buoni e in cattivi. Per cui se ci deve essere una risposta, ma saremo poi tutti insieme a farla. Da un lato evitiamo fughe in avanti da parte di qualcuno, ma dall'altro evitiamo fughe all'indietro da parte di qualcun altro, penso che sia altrettanto importante. Beh, sicuramente, poi insomma dalle immagini innanzitutto c'è da dire il fatto che alla reazione insomma rispetto alle cariche è stata appunto portata avanti davvero da gente comune, nelle prime file si distinguevano anche persone di una certa età, e questo ci dà anche un po' il senso di quello che sta accadendo in termini di partecipazione. Tra l'altro c'è da dire che anche dal punto di vista simbolico fin da subito sono apparse insomma tutte quelle caratterizzazioni che rimandano diciamo a proteste che si svolgono, che si sono svolte in passato, ma che oggigiorno continuano a riempire le piazze di altri paesi europei e non solo, perché abbiamo visto le Cacerolados in prima fila, insomma si risente un po' l'eco delle proteste nei confronti della globalizzazione da una parte e anche di una gestione insomma della cosa pubblica piuttosto marcia, come dicevi tu. Poi chiaramente magari ci sarebbero anche da approfondire alcune cose che ti chiedo dopo, però vorrei ecco che ti soffermarsi anche su questo, insomma si sente un po' l'eco delle proteste che vieni da altre città. Sì, dunque Parma ha la caratteristica, come penso purtroppo tante città di provincia, ma Parma forse ancora di più, di sentirsi il centro del mondo pur essendo semplicemente una piccola città di provincia. Di conseguenza purtroppo è stata piuttosto chiusa rispetto a tante cose. Però effettivamente si sente assolutamente, penso che sia normale di tutte queste cose, tanto più quando la protesta è così eterogenea, perché ci sono veramente persone che per appartenenza politica, culturale, anagrafica sono molto diversi anche, quindi è normale che ci siano poi diverse espressioni di questo malcontento. Basterebbe essere presenti, no? Ma anche forse guardando qualche immagine che avete potuto prendere da siti o dalla televisione, avete potuto notare, come hai detto prima tu, che ci sono persone molto diverse, di diverse età. Sicuramente il clima o anche soltanto l'ispirazione rispetto a quello che è successo recentemente in Tunisia o in Algeria, rispetto a quello che è successo in Spagna con gli Indignados, in realtà, che è così come spesso Parma Repubblica o altri si chiamano, è stato proprio nato da questa sono i giornalisti che hanno appioppato questo nome a tutto quello che sta succedendo, quindi è un po' anche un gioco di contaminazione dialettico, nel senso che anche chi legge gli eventi e chi poi identifica sui mezzi di informazione fa riferimento a dei modelli che possono essere collegabili e comprensibili con cose che stanno succedendo recentemente. Spero che Parma possa essere un laboratorio, no? Di un perlomeno per la città, per riuscire a far venire fuori qualcosa che vada oltre la condizione dei disonesti, dei corrotti, eccetera, eccetera, ma possa veramente poter partorire un minimo di coscienza collettiva rispetto a quello che sta succedendo, e possa far diventare pagina perlomeno rispetto a certe cose. Quando ti dico questo parlo delle politiche xenofobe che hanno accompagnato le riqualificazioni urbane e delle politiche che hanno cancellato il lavoro e le classi popolari dalla rappresentazione politica. Oh, bene Andrea, allora proprio per rimanere su queste ultime cose che dicevi, anzi aspetta, fammi sottolineare prima un altro aspetto, perché prima lo accennavi, c'è da dire ecco che il dispositivo della divisione tra buoni e cattivi, ecco, ci fa piacere che anche a Parma sta miseramente fallendo insomma sotto i colpi della reazione generale e sociale delle persone che chiaramente rappresentano direttamente la realtà di cui sono circondati, ed è un dispositivo che sta saltando più volte in questo paese, perlomeno dal 14 dicembre alla Val di Susa, insomma. Però ecco, per rimanere sulle ultime cose che dicevi, l'accostamento che viene fatto a livello mediatico, chiaramente, tra quello che sta succedendo, tra le proteste di Parma e magari anche il passato della storia del nostro paese, è quello con Tangentopoli. Effettivamente poi, insomma, dal punto di vista della dialettica politica, in questo momento c'è un po' questa alternativa, per così dire, tra mille virgolette, di modello da un punto di vista, diciamo, di risposta, di gestione di questo momento di crisi, ed è diciamo un'alternativa che pone alcune condizioni proprio in riferimento al taglio degli sprechi, al taglio delle inefficienze, a bandire appunto l'imperversare della corruzione. È un modello che, se vogliamo, può essere rappresentato da un punto di vista mediatico dal giornale Repubblica, che da un punto di vista politico è invece magari rappresentato anche da altre forze politiche, come quelle ad esempio del Terzo Polo, i vari Casini, da un punto di vista imprenditoriale Montezemolo e la stessa Confindustria. Insomma, rispetto a quello che sta succedendo, come tu tra l'altro accennavi prima, c'è invece la possibilità che si possano innestare, attraverso chiaramente la partecipazione, la discussione, la possibilità che questo movimento cammini ancora in avanti, forme di critica più radicali rispetto a questo sfondo, insomma, che abbiamo qui delineato? Sicuramente questa possibilità c'è, ma poi sta tutta a noi che ci siamo dentro queste cose a sapercela giocare, anche nel senso di riuscire a sapere comunicare alcune cose con le persone con cui ci troviamo a lottare. Sicuramente questo tipo di alternativa dal punto di vista politico, come dicevi tu, della buona amministrazione, che poi sarà presentata dai centristi piuttosto che altri, a Parma è difficilmente è difficile che possa avere successo, nel senso che l'UDC è parte integrante dell'amministrazione comunale. È un centrodestra un po' particolare, quello di Parma al potere, perché ha escluso Alleanza Nazionale, e il Nord non ha mai avuto rappresentanza dentro il consiglio comunale, quindi è una sorta di riproposizione infrastraducale della vecchia Democrazia Cristiana, però sono tutti compromessi con il potere del governo rappresentato da Berlusconi, che mentre riusciranno a riciclarsi, perlomeno nel breve periodo, che abbiamo visto che è successo con Tangentopoli. Può succedere qualcosa se si sveglia qualche cosa nella città, nel senso che se si affida alla magistratura il ricambio della classe dirigente, è il cambiare tutto per non cambiare nulla, no? In questo senso noi avevamo invitato a denunciare, a venire allo scoperto rispetto a situazioni le più varie, non soltanto legate all'amministrazione comunale, ma anche legate al posto di lavoro. Noi avevamo fatto uscire un volantino di denuncia in cui distribuivamo questo test per la selezione del personale fatto da questa cooperativa che lavorava per il comune, in cui non vi era nessuna domanda che afferiva ai titoli di studio e alle competenze professionali, ma ti chiedeva chi avevi votato, se eri single, con chi andavi in vacanza e che scarpe avevi comprato. Questa è la parte che è diventata, ed è forse l'Italia anche che è diventata, per cui noi abbiamo fatto capire la differenza che c'è a livello, non è un gioco soltanto di politici corrotti e sporchi, perché è una cosa sporca di per sé la politica, ma per il fatto che c'è una classe dirigente che se la fa, se la canta e se la suona da sola, e in più lucra tantissimo, e a noi ci lascia questi lavori di merda, cioè ci lascia queste opportunità di fare la comparsa di Canale 5, di fare dei lavoretti sottopagati di questo tipo. Anche Parma, che passa per una realtà economica avanzata del paese, non offre delle grandi opportunità, non offre opportunità di lavoro esaltanti, ma tutta questa costellazione di lavori precari si salta da un posto precario all'altro, e abbiamo cercato di puntare su questo. Cioè, voi quando vi presentate in un posto di lavoro, per un posto di lavoro, e vi presentano un foglio, un fogliaccio di questo tipo, comportamenti affini, dovete mandarli a cagare, perché se non lo facciamo, adesso, se lo facciamo tutti insieme possono avere paura loro, mentre invece ancora c'è molta paura dei datori di lavoro, molta paura delle figure di potere. Per cui se si riesce a risvegliare la città in questo senso, ci sono delle possibilità, e ci sono delle possibilità anche per dei messaggi nuovi e per qualche cosa che possa portare, possa fare voltare pagina, sicuramente nel breve periodo pronosticare cambiamenti radicali, sembra già dato, però riuscire a dare voce, a dare rappresentanza, a dare così visibilità e concretezza a settori sociali popolari e a idee anche radicali, è una possibilità molto concreta che ci si sta presentando, e cerchiamo di saltarci fuori e di farcela. Vediamo come andrà. Eh certo, dunque una situazione sicuramente da seguire e in divenire. Allora Andrea, in chiusura, sì, è stato già lanciato un prossimo appuntamento di assedio al Palazzo Municipale. Quando è previsto? È previsto per oggi dalle 17 in avanti. Questa volta, visto che lo scorso Consiglio Comunale è durato fino oltre la mezzanotte, noi quest'oggi cercheremo di attrezzarci per rimanere lì anche tutta la notte per poter degnamente salutare i nostri amministratori all'uscita. D'accordo, allora una lunga notte quella che si preannuncia nella vostra città. Noi Andrea ti salutiamo, sicuramente ci risentiremo per capire bene cosa è successo anche dopo l'iniziativa di oggi. Ciao, grazie. Grazie mille a voi, ciao, ciao. Ciao.